Sì, Marco l'ho sentito lo stesso, sarà 4-5 giorni fa che era in macchina andando verso Porto Torres, poi non l'ho sentito più perché anche lui aveva un po' di timore per polizia o carabinieri, dai, se ti beccano a parlare mentre guidi ti rompono le scatole. Niente, Marco lo stesso era da un bel po' che non lo sentivo, l'ho sentito qualche giorno fa però. Vabbè, ma che altro, allora che poi se non vuoi parlare camminando, quando ti fermi vai a Malai per dire che fai lì, ti fai una chiacchierata. Ma io ti ripeto, lo metto sopra le gambe e a me Emilio Antonio mi ha detto che mi sentivo bene stamattina, ce l'avevo sulle gambe, non guidavo tranquillamente, non mi giravo manco a guardare il microfono, né nulla, parlavo e guardavo la gamba. Sempre con quell'antenna che ti avevo preso io, con la base magnetica. Esatto, quella lì è un cannone con l'antenna, da tutte le parti mi sentono con quell'antenna. È un cannone, non è lunga e prende bene. Diciamo che non deve avere molte pretese perché la carica è fina e non puoi caricare più di 100 watt, roba del genere, ma io non le uso degli anni, quindi non me la fatti nulla. Già va bene, comunque l'importante è che esca bene. Me la prenderò anch'io perché quella che ho io è troppo lunga, capito? Invece quella lì è bella compatta e anche tenerla in macchina è più comoda. E ti dirò di più, l'ho usata anche a velocità, quell'antenna non si stacca. Non è come l'altra che era pesante, quella là l'ho venduta, quella con la base magnetica, me la sono venduta. Io lo stesso, quella che ho io è già è buona, è una Alan, è bella lunga, capito, prestante, puoi attaccare sino a 500 watt, capito, e non succede niente, però è poco pratica proprio perché c'ha lo stilo lungo, capito, flessibile, già è buona e sulla base lo stesso, io cammino anche a 120-130 e non si muove niente, flette parecchio, però è troppo evidente, capito, e mi scoccia un po'. Sai cosa c'è, Carlo? Che quella che c'avevo io era molto pesante, era per la base che avevo, era troppo pesante, lì ci volevo una base a tre piedi, quelle che hanno tre calamite, per intenderci, e magari quella avrebbe resistito di più, però quelle altre lì erano proprio abbullonate, in posti grossi, diciamo, perché se no se la porta via, è troppo pesante, capito? Cazzo, mi sono spaventato una volta tornando dall'Alghero, per due volte me l'ha fatto, la seconda volta mi ha fatto danno, perché come caduta mi ha fatto una strisciata sul tettuccio e due ammaccaturine piccole piccole me le ha fatte. E quindi ho detto basta, adesso non la metto più, buonanotte, se la metto non la metto più piccola, e così ho fatto. E mi sa che la prenderò anch'io così, almeno è più pratica, la posso lasciare sempre nel cofano e non mi disturba anche quando faccio spesa, eccetera, perché è molto molto più compatta, capito? E rende bene quella lì. Adesso guardo tra gli ordini fatti e vedo un po' com'era il modello e mi sa che la prendo. Costa una fesseria, te lo ricordi quando l'avevo pagata, non me lo ricordo, una fesseria costa, confronta le altre antenne e rende bene, non costa tantissimo. Già lo controllo dopo tra gli ordini fatti, già mi dà tutto nella cronologia degli ordini, capito? Già la becco, tanto l'avevo presa su eBay quella, ci aveva impiegato un po' di tempo ad arrivare, ti ricordi che sembrava che non arrivasse più, eccetera, invece poi alla fine è arrivata. Sì, ti avevano scritto da che non era, che non si trovava più, e poi invece è arrivata, invece che se sono persi, e chi lo sa. Comunque interessante che poi era arrivata col cartone rotto, ti ricordi? Sì, esatto, perché arrivava dalla Polonia e evidentemente aveva impiegato un po' di tempo, però l'importante è che poi alla fine era arrivata, insomma. Bene, Mera. E chi c'è ancora? Antonio e Antonello e basta. Antonio mi ha detto un attimo di bianco, quindi non so se adesso rientra o se sta facendo la pappa al pupo. Ah beh, lui sarà col suo puppetto, mi ha detto c'ha un anno e tre mesi, quindi starà scarpinando, gliene dà da fare adesso. Vabbè, piano piano già cresce. No, sono in bianco che sto mangiando, ok, ci sentiamo dopo. Tranquillo Antonio, vai già, siamo qua noi. Ciao Antonio, buonasera, ci sentiamo dopo. Cava cava, comprate antenne, comprate. Già il bar. Diamo una quindicina alla volta di antenne di macchina. Lo so, di quell'amico tuo che va a chiudere il negozio, ma non ricordo altro. Era brutta, non è molto, cazzo, si è lampato tutto, si è lampato, appena quanto c'era. Tutto il resto abbiamo fregato Gio Santa Maria, come l'ho trovato, che è morto, l'ho trovato che era morto, e subito sono andati all'attacco. Oh, yeah. Per carità, perché avuto come morto da solo come un cane dentro al letto, per, dopo 4 giorni l'hanno ritrovato. Ma davvero morto? Non lo sapevo. È morto dentro casa, è morto. Dopo 4 giorni hanno sentito l'odore, hanno chiamato i vigili del fuoco e hanno trovato a lui disteso nel letto. Poi hanno preso la casa, i nipoti hanno chiuso tutto e poi hanno dovuto pagare, c'era un po' di debiti, ci aveva capito. Hanno dovuto pagare i debiti, e poi c'era un sacco di roba da collezione anche, ne hanno trovato 10.000 dischi di quelli a 78 giri, dentro l'armadio, originali. Quelli magari mi sarebbe interessato, io ce l'ho il piatto, c'è il piatto della Sony, io professionale, ma l'avevo comprato da Cinema, te lo ricordi quando era l'emiciclo Cinema? Già me lo ricordo, già, a voglia, per carità, a quei tempi era pieno di negozi di elettronica, di tutto era. Adesso, oramai, è diventato un mortuorio Sassari, centro storico, sono tutti più che negozi, di negro non ci sono, cinesi ce ne sono rimasti pochi, ce ne sono fuggiti anche quelli, i rumeni, sono spariti anche i rumeni, ormai c'erano tutti quanti negri lì. Io, se fossi stato il sindaco a posto di affittare la casa a questi negri, li avrei sequestrato e ci avrei messo gente di Sassari a abitare. Cosa vuoi rimettere a posto? Adesso non è che lo tolgo Giusimi, quando sarà finito ci metteranno i negri dentro e saranno bene in albergo, saranno belli tranquilli, con ogni giorno escono a parlarsi, a spacciare e poi rientrano a cuccia. Sassari era una città tranquilla, sì, quando sono arrivati questi di colore che hanno fatto un casino nero, sparature, risse, questo, quell'altro, beh, Sassari invece sarebbero così scappati, gente di Sassari non ce n'è più, perché li rubavano anche la roba che stendevano, li rubavano tutto, se ne sono scappati. Già lo so, c'è un'amica mia che abita lì, infatti sta vendendo tutto, stanno vendendo lì, stanno tutti stanno vendendo, se ne vogliono andare, ma la colpa è di quelli che hanno gli appartamenti, le cantine, capito, puoi avere i soldi da quei 300 euro al comune e ci mettono persone del genere, capito, poi lo sai, a mangiare mangiano in mensa, quindi non è che mangiano in casa. E quindi ha rovinato tutto il suo sindaco. Prima ci aveva messo a Pedaveda, poi da Pedaveda ce li ha messi in consumito di Emanuele, poi tra Senegali e Vecchi e Nigeria dei Nuovi, fatta è come avere due tipi di api diverse. Ma sì che c'erano solo i senegalesi, quelli lavoravano, erano tranquilli, scherzavano, ridevano, erano tranquilli, ma questi qua non li puoi guardare manco in faccia, c'erano una faccia da delinquenti, solo se li guardi, sembrano terroristiche. Avanti capo. Ho visto il centro storico, ormai è tutto così, mamma mia. Tutto, non c'è più niente, molte attività commerciali che c'erano hanno chiuso, eccetera. Adesso è tutto negozietti di, come si chiama, pakistani, vendono perline, cavolate così, capito? Non c'è più niente, hanno portato spostato tutto nelle zone commerciali, ormai la gente quando esce a fare spesa va a Predanieda e niente, al centro non c'è più niente, non c'è, c'è qualche localino dove nel fine settimana un po' far rivedere un po' di gente in giro, qualche pizzeria, qualche tipo piazzazzola che c'è, cucina sassarese lì in quei localetti che fanno, tipo l'assassino, capito? Ce ne sono altri due lì che fanno sempre cucina sassarese, però poi oltre a quello non c'è granché. Come città Sassari è peggiorata molto. Sì, io lo so, c'è cosa che c'è a toccare lì, lo dico da Gianni, non c'è una mezza cartuccia, c'è un locale, c'è un... fa, anzi c'è, ne organizza, nel locale che c'è lui, poi quando ha finito lo trovo sempre da ricordo, verso le 9, a bessi qualcosa. Non c'è locale, non lo so. Mangiamo da nulla. Sì, sempre c'è un locale, c'è. Allora, tu dici c'è un locale, ma sono, faccio pranzo, c'è, quello che è, quando me lo chiedono, organizzo quel che è trattoria a me. Poi che chiude e si sa bene, dice che è un casino lì, vicino a lui. C'è di tutto di più, mi ha detto, già mi sono accorto, gli ho detto, sono passato al centro storico, gli ho detto, era tutto buio, non come prima, che andavi, camminavi tranquillo, adesso sarei molto attento se hai ritrovi qualche nigeriano dietro, se ti dà qualcosa a te, fate le pide il portafoglio. E noi c'è la mia università, si chiama Mangiamo da Nonna, il locale, capito, il caso mi sta chiamando, che ne so? Le 19.30. C'è un orologio, alle 7:30 è un punto lui mi chiama. Ebbè, poveretta, ha ragione. Pensa, adesso stavo guardando nella cronologia degli ordini, spedito il 9 febbraio, consegnato il 20 febbraio del 2023, quell'antenna, si chiama antenna Sunker Elite CB con base magnetica. Sì, sì, quella lì. È la nuova quell'antenna, guarda. A me non mi dà nessun problema, io vabbè la uso con un apparecchio, diciamo, che è buono, dai, però mi va bene. Io la uso col Magnum S9. Sì, sì, era costata 37,51 euro. Sì, te l'ho detto, la fesseria era costata. Fa prendere, cosa ti posso dire, una turbo costa 70 euro adesso. E infatti questa è abbastanza economica, dai, non è molto dispendiosa la cosa. Va bene, anche io adesso faccio un attimo di bianco, poi se ci siete più tardi magari qualche altra chiacchierata ci si può fare, perché sono un po' impegnato adesso in cucina, dai. Ci sentiamo, ciao Gianni, mi ha fatto piacere risentirti, e ciao Antonio se sei in ascolto, cena tranquillo. Antonio, ci sentiamo magari domattina, tanto sono in casa, quindi già sono all'ascolto. Anche a me Carlo mi ha fatto piacere, dai, ciao a tutti, anche io saluto, ciao Antonio, ciao Carlo e ciao anche a Torello. Buona serata a tutti, buona continuazione, io dopo non rientro perché poi faccio la cena e mangio. Okay, ciao Gianni, ci sentiamo, buona cena con tutto. Ciao Carlo, buona preparazione di cena. Allora adesso guarda, preparo la cena anch'io, poi domani già sono a casa, se fa una giornata calda e c'è un nuvoloso metà sera, non c'è vento, se ha con spirito sopra nel cacuna ci metto l'altra, già ci impiego un paio, un'oretta, un'oretta e mezza, non sono in male, sono i radiali. Poi per infilarci lo stilo è una cazzata. Ok, sentiamo a domani. Eia, ciao Gianni, ciao Antonio, già ci sentiamo domani, dai, se ti metti a fare quel lavoro, allora buon lavoro, poi bussa così la provi, se per caso riesci a cambiarla, già sono in ascolto domattina. Ciao, buona serata a tutti. Eia, ciao, a domani.